I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati. Prima di tutto buon anno, perché questa è la prima trasmissione della coordinamenta dei nomi delle cose del 2016. Siamo state assenti il mese di dicembre, ma è stata un'assenza, diciamo, programmata, un'assenza dovuta a problemi di diverse di noi, però anche a una necessità di riflessione. Di solito noi ci prendiamo il mese di giugno, quest'anno non l'abbiamo preso, avevamo fatto le trasmissioni fino alla fine e avevamo necessità di pensare e di scambiarci opinioni. E tant'è vero che riprendiamo con una considerazione che abbiamo tirato fuori a Capodanno, che abbiamo messo sul nostro blog e che ci accompagnerà in questi altri sei mesi di trasmissione, e che si condensa in una frase, cioè che siamo tutte prigioniere politiche. Cioè non sono prigioniere e prigionieri politici solo quelli che sono prigionieri politici, sono prigionieri politici e prigioniere politiche anche quelli che stanno nel carcere, quelli che vengono chiamati comuni, ma anche quelli che stanno nei CIE, sono quelli che stanno nei CARA, quelli e quelle, quelli che stanno negli OPG, quelli che stanno nei riformatori, nelle cliniche psichiatriche, ma anche quelli che sono costretti, quelli e quelle che sono costrette ad andare a scuola, quelle che sono costrette e costretti, cioè praticamente tutto questo mondo al lavoro salariato, tutte quelle che sono costrette nella coppia, nella famiglia, tutti quelli che vivono all'interno di questa gabbia invisibile che il sistema ci ha costruito addosso. Quindi dovremmo cercare di comunicare con quelli che ci circondano e quelle che ci circondano che la loro condizione, la nostra condizione, è tutta di prigioniere politiche. E anche la ragione è ingabbiata in una prigionia politica, cioè vorrebbero farci credere che dovremmo essere ragionevoli, dovremmo renderci conto dei nostri limiti, dovremmo tener conto della realtà delle cose, e invece noi vogliamo e desideriamo e pretendiamo l'impossibile. È dedicata a Rosa Luxemburg, assassinata il 15 gennaio del 1919 dalla socialdemocrazia tedesca. E questa trasmissione si chiama I nomi delle cose perché lei ha sempre teorizzato che la rivoluzione comincia chiamando le cose con il loro nome. L'imperialismo è al tempo stesso un metodo storico per prolungare i giorni del capitale ed è il mezzo, il più sicuro e più veloce, di mettervi obiettivamente un termine. Ciò non significa che il punto finale abbia bisogno di essere raggiunto alla lettera. La sola tendenza verso questo scopo dell'evoluzione capitalista si manifesta già attraverso dei fenomeni che fanno della fase finale del capitalismo un periodo di catastrofi. Dall'accumulazione del capitale, 3.31, il protezionismo e l'accumulazione. Come al solito è divisa in due parti, come nella maggior parte dei casi. La prima parte di attualità femminista, poi la parentesi, e la seconda parte di approfondimento, quello di un che tratta un argomento particolare. Nella parte di attualità femminista, chiaramente in questi giorni rimbalza su tutti i media mainstream di tutti i tipi la notizia che la notte di Capodanno nella città di Colonia, ma anche in altre città della Germania, decine di donne sono state aggredite da nuvoli di uomini, molestate sessualmente e derubate. Allora, prima di tutto una cosa ci balza agli occhi, cioè già dopo diversi giorni non si riesce a capire, questa è una caratteristica, veramente come sono andate le cose, e questo già è un grosso problema, perché i media già per conto loro non danno più notizie, ma manipolano, falsificano a uso e consumo degli interessi di potere di cui sono parte integrante, e quindi non sono degni di nessuna considerazione. Ma a parte questa premessa, effettivamente non si riesce a capire. Veramente ci sono diciamo versioni discordanti, e poi è possibile che in una situazione di controllo sociale e poliziesco serrato in una zona diciamo vicina alla stazione come quella tedesca non ci sia un video, perché la situazione di controllo tedesco, cioè io vi invito a pensare se uno facesse o una facesse qualcosa in un contesto di quel tipo, no? E vabbè. E non ci sono neanche filmati, chiamiamoli cosiddetti amatoriali. Filmati amatoriali ormai dilagano, no? Qualsiasi cosa succeda in qualsiasi a qualsiasi ora del giorno e della notte, che uno si dice come mai quel tizio stava lì a filmare col telefonino, invece non ci sono. Tant'è vero che l'unico video, l'unico filmato che è stato mandato in giro, oltretutto è un falso, perché era un filmato del 2012 che riguardava una giornalista a Piazza Tahrir. E cioè, questo ci fa riflettere assai, dato che poi la verità su questo filmato che è andata in giro l'ha detta proprio lei. Un video su YouTube, spacciato come documento dell'attacco da parte di immigrati arabi nei confronti di una donna tedesca la notte di Capodanno a Colonia, risale in realtà al 2012 ed è stato girato con un cellulare al Cairo. Precisamente il video ritrae l'aggressione ad una giornalista tedesca a Piazza Tahrir nei giorni della cosiddetta primavera araba, che porteranno alla destituzione del presidente egiziano Hosni Mubarak. A rivelare il falso sulla sua pagina Facebook è proprio la giornalista che fu oggetto dell'attacco, Julia Lieb. Nel post, rompendo il silenzio, scrive: «Ho esitato a lungo, ma non mi vergogno più. I criminali politici dovrebbero vergognarsi». Allora, il problema, cioè noi come femministe, le uniche che prendiamo come interlocutrici e che riteniamo che siano le uniche, l'elemento fondante, le uniche da prendere come riferimento sono, e che potrebbero fare chiarezza, sono le donne aggredite, perché sono le uniche che hanno voce, che hanno subito e che sono gli unici soggetti che dovrebbero essere presi come riferimento. Detto questo, vediamo invece che cosa è successo, no? Subito c'è stata la caccia all'immigrato, la strumentalizzazione pazzesca, pesante, in chiave razzista e xenofoba. E rispetto a questa posizione che hanno preso in maniera diversa ma comunque trasversale, comunque molto pesante, sia in Germania che qui in Italia, ci sono dei documenti, abbiamo dei documenti che vi leggeremo, di alcune compagne che hanno fatto delle riflessioni che noi riteniamo molto importanti e che sono diciamo una presa di posizione femminista, una chiave di lettura che assolutamente deve rifiutare tutto quello che è stato imbastito ed che è stato messo in atto rispetto a questa questione. Tant'è vero che la prima cosa che ci è saltata agli occhi è stata, no, proprio per la questione della caccia all'immigrato, la strumentalizzazione in chiave razzista e xenofoba, ci siamo chiesti, la prima cosa che proprio ci è venuta in mente, ma non è che invece queste cose succedono sistematicamente in situazioni simili, no, tipo feste di massa eccetera, anche qui da noi, cioè proprio nella Santa Europa, e in tutte queste situazioni sono gestite e tollerate e normalmente accettate nei contesti in cui si muovono gli uomini bianchi occidentali. Comunque adesso vi leggiamo quelle che sono due, cioè prima una e poi l'altra, testimonianze di due compagne che hanno scritto sull'argomento. There is a house in New Orleans. They call it the Rising Sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. Listen to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans. They call the Rising Sun. Thank you. il primo documento è di una compagna che l'ha mandato sui collegamenti di movimento e che si intitola Colonia contro l'uso razzista del corpo delle donne, ed è un, diciamo che parte appunto, come dirà all'inizio, da un articolo editoriale, anzi, di Lucia Annunziata sul Huffington Post. Proverò a sintetizzare qualche riflessione sui fatti di Colonia, a partire da un editoriale. Da sempre la pessima Lucia Annunziata sul Huffington Post. Per chi non sapesse a cosa mi riferisco, all'episodio delle violenze sessuali di massa avvenute durante la notte di Capodanno a Colonia da parte di centinaia di uomini, a detta dei media arabi e ubriachi, a danni di decine di donne palpeggiate e stuprate all'uscita della metropolitana. Ovviamente avvoltoi razzisti nostrani e tedeschi sono zompati sul carrozzone facendone una questione etnica per invocare più politiche securitarie, quando qualcuno addirittura, vedi la sindaca di Colonia, ha incoraggiato le proprie concittadine a girare alla larga dagli stranieri, come se la nostranità del proprio interlocutore mettesse al riparo da molestie e violenze sessuali. Ma perché stupirsi di costoro? Da leghisti, forcaioli e fogliacci come il giornale ci si aspetta questo ed altro. Il problema, o forse la conferma, nasce quando personaggi come Lucia Annunziata, tra le entusiaste promotrici di Se non ora quando, pronta ad affacciarsi nelle piazze per autoproclamarsi paladina e portavoce delle donne, usano il corpo delle donne stesse come strumento di propaganda e profitto economico. Tanto per cominciare, in perfetto stile destrorso, Annunziata opera una sovrapposizione tra migranti, percepiti come una massa unica e indistinta, arabi, assunti come categoria antropologica liscia pur coprendo la metà di un continente, Islam, come se tra gli arabi non esistessero i laici, gli atei o i non praticanti, e infine la violenza sessuale, avvallando in pieno quello che dicono colonialisti, razzisti e ISIS stesso, ossia che il Coran avvallerebbe la violenza sessuale e l'annichilimento fisico delle infedeli, quando ciò non è affatto vero, ma semmai frutto di una cultura patriarcale, sessista e macista. Partendo quindi da queste conclamate inaccuratezze di cui la direttrice di un giornale dovrebbe quantomeno preoccuparsi, la nostra si lancia al successivo passaggio logico, ossia che questa aggressione odiosa sia una guerra alla nostra civiltà, quella occidentale, attraverso l'uso del corpo delle donne come terreno di guerra. Innanzitutto, a partire dal vulnus logici precedenti, appare chiaro che, a detta di Annunziata, la cosiddetta cultura occidentale si estranea al sessismo, al macismo e alla violenza. E infatti, subito dopo, diciamo, questa introduzione, come giustamente appunto sottolinea, ci sono una serie, diciamo, la cosa folle di questo articolo appunto sono proprio questi passaggi logici, no? Appunto, il primo è questo qui, per cui risulta alla fine dell'articolo che la cultura occidentale è estranea al sessismo e al macismo, mentre invece la compagna che scrive ricorda giustamente come ovviamente, cioè, le violenze sono all'ordine del giorno anche nella nostra cosiddetta cultura occidentale, insomma nel nostro sistema, eccetera, ricordando ad esempio come lo stupro fosse un reato, considerato un reato contro la morale fino al 96, che fino all'81 era concesso il matrimonio riparatore dello stupro, eccetera eccetera, e questo non fa mai male, diciamo, ricordare un po' la storia dove veniamo. Poi diciamo, la compagna giustamente affronta l'altro abominio logico-politico, come lo chiama, di Lucia Annunziata, che chiaramente, diciamo, collega direttamente le aggressioni al corpo delle donne, quindi l'uso della violenza sessista, a il problema dell'immigrazione, e quindi dice: cavalcando l'onda, dando un colpo al cerchio e uno alla botte, Annunziata colpevolizza i migranti, e in particolare quelli di ultima generazione o arrivati da poco, additandoli come gli autori del gesto. La soluzione, e questa soluzione è veramente fantastica, restringere le maglie del controllo, verificare se i presunti rifugiati hanno titolo alla protezione umanitaria o no, come se ci fosse un filo diretto tra l'essere titolati a qualcosa, aventi uno status e quindi buoni, quindi non stupratori, e come se non sapesse che le folli leggi dell'Unione Europea sulla migrazione rendono praticamente impossibile arrivare in Italia in modo legale. È come se gli ostacoli posti dalla fortezza Europa alla libertà di movimento non avessero già trasformato intere porzioni di mare e terra in cimiteri a cielo aperto. Ma a quanto pare i migranti sono buoni solo da morti, meglio se bambini, per usare i loro corpi al fine di strappare qualche click. Tutto questo per difendere le donne dagli aggressori, da chi vuole privare della loro autonomia, indipendenza e libertà di girare. Quelli che no passeranno. Tra l'altro, a un certo punto, la proposta, diciamo, quella a cui mi riferivo anche io, fatta dall'Annunziata, che veramente ha dell'allucinante, è che la giornalista arriva a proporre di istituire due canali di ingresso per gli immigrati, uno dedicato alle donne, agli anziani e ai bambini, che quindi, diciamo, possono entrare e ottenere l'asilo politico magari con dei controlli, diciamo, più blandi, mentre invece ai giovani maschi che arrivano il controllo dovrebbe essere più incisivo. Tra l'altro, leggendo l'articolo, una cosa che la compagna non nota, ma che comunque a me mi ha fatto accapponare la pelle, è che l'Annunziata cavalca lo scontro di civiltà a livelli molto pesanti, arrivando addirittura a mettere in discussione la presenza di cristiani all'interno delle ondate migratorie, come a dire: infatti arrivano pochi cristiani nei nostri paesi perché non si mettono in viaggio con gli immigrati di altre religioni, capito? Perché i cristiani sono buoni. E appunto, poi la compagna, vogliamo forse leggere un passaggio che ci ha molto colpito, perché è centrale, diciamo, nell'additare le responsabilità che questo tipo di donne, giornaliste come l'Annunziata o tutte le altre, diciamo, che più o meno partecipano a diversi livelli ai posti di comando, quindi alla gerarchia di potere, eccetera. Aspettate che lo trovo. Metti un po' di musica. Annunziata, sotto questo punto di vista, per me non è meglio di quel giornale che titolava tempo fa "Bastardi islamici" o del Salvini di turno, anzi è peggio, in quanto subdola e coccolata da quella sinistra al caviale che ultimamente con destra e democristiani va tanto d'amore e d'accordo da essere di partito e persino di governo. È ora che iniziamo a togliere la legittimità di stare nelle piazze a parlare a nome nostro a questi personaggi con cui condividiamo sì o no l'apparato riproduttore. Non ho bisogno che Annunziata mi protegga, semmai ho bisogno che avvoltoi, razzisti e securitari siano lontani dal mio corpo e dalla mia autodeterminazione, tanto quanto gli stupratori spuntati fuori quella sera e i tanti molestatori di ogni giorno. Se personaggi come lei possono ancora definirsi femministe impunemente, abbiamo un grosso problema. Ovviamente alle donne aggredite a Colonia la massima solidarietà e tutta la nostra rabbia complice. Come dicevano le stesse donne scese in piazza dopo le aggressioni, gegen sexismus, gegen razzismus. I molestatori e gli sfruttatori politici nei nostri corpi no passeranno. E c'è un altro interessante pezzo di Nicoletta Poidimani che potete trovare sul suo blog www.nicolettapoidimani.it, che parla proprio invece della nostra situazione, cioè del patriarcato, del nostro patriarcato e di quello che succede qui da noi. Violenza di genere e femminicidi politici. La violenza di genere ha sempre una valenza politica dal mio punto di vista, poiché è uno strumento utilizzato per perpetuare il secolare dominio del genere maschile sulle donne. Poco conta se questo uso sia sempre consapevole o sia frutto di una mentalità che inferiorizza le donne fino a renderle proprietà maschile, dunque schiave dell'uomo. È un dato di fatto storicizzabile da combattere alla radice. Esiste poi un uso politico della violenza di genere e del femminicidio, il cui obiettivo non è solo quello di terrorizzare le donne per mantenerle in condizioni di schiavitù, ma anche quello di terrorizzare un'intera popolazione. Generalmente questo secondo aspetto va di pari passo con la guerra. Nella storia se ne possono rintracciare innumerevoli casi. Il più recente è quello della guerra che il governo di Erdogan sta portando avanti con rinnovata ferocia nei confronti della popolazione curda. Ciò che è avvenuto a Colonia e in altre città a Capodanno è terribile, senza dubbio. E non deve stupire che la mentalità patriarcale faccia uso anche dei social network per organizzare violenze di massa, O continuiamo a pensare stupidamente che il patriarcato abbia a che vedere con il feudalesimo e nulla abbia a che vedere con la modernità e le sue tecnologie? Ricordiamo bene le aggressioni sessuali di gruppo in piazza Tahrir al Cairo, quando orde di maschi circondavano le donne, le molestavano e le stupravano per punirle della libertà che si erano prese scendendo in piazza a protestare. Ma dovremmo anche ricordare bene come nell'arco di breve tempo si organizzarono i gruppi di difesa e autodifesa delle donne. E così anche in India e in tante altre parti del mondo, che oggi le aggressioni sessuali di gruppo, come quelle di colonia, vengano ridotte ad una questione etnica o culturale, serve solo a coprire un dato di fatto, che noi donne abbiamo invece molto chiaro, anche se giornaliste e compagni sembrano dimenticarsene molto facilmente quando si tratta di soffiare sul fuoco della xenofobia. Quale donna non ha avuto a che fare con aggressioni sessuali di branco già dalle elementari, se non da prima? Cosa c'entra la provenienza etnica se non per dissimulare un problema molto profondo che si chiama dominio patriarcale e viene instillato nei maschi ancor prima che nascano? Si tratta di un dominio che, pur manifestandosi con declinazioni differenti nella sostanza, non cambia affatto. Quando ero in Olanda, ad Utrecht, per ragioni di studio, mi si raccontava di come quel paese fosse avanti anni luce, quanto le donne fossero emancipate e quanto illuminati fossero gli olandesi, con i loro matrimoni gay e lesbici, con il loro antiproibizionismo, eccetera, eccetera. Trovavo poco convincenti queste affermazioni, anche perché sapevo della genderizzazione della popolazione migrante in base alla divisione capitalistica del lavoro. Per ottenere il permesso di soggiorno alle donne immigrate veniva insegnato come diventare delle brave casalinghe olandesi, che lunedì lavavano i panni, il martedì stirano e via dicendo, mentre agli uomini venivano insegnati lavori di basso profilo per tenerli al fondo della scala sociale e razziale. Ma la conferma che l'Olanda non fosse affatto un paese meno macista di altri l'ho avuto durante il Queen's Day, quando il 30 aprile l'intera popolazione è in festa per il compleanno della regina. Tutto vero. Si tratta di una giornata in cui si rovesciano le consuetudini quotidiane, più o meno rigidamente mantenute per tutto il resto dell'anno, una sorta di carnevale nel senso più alienato del termine, una valvola di sfogo. I festeggiamenti cominciano la sera del 29 aprile e proseguono per 24 ore, inutile dire che, poi, il 1° maggio, tutti e tutte rientrano docili nei loro ranghi calvinisti. Altro che festa del lavoro. E per tutto quell'arco temporale gli olandesi e le olandesi si scolano ettolitri di alcolici ed è molto frequente incontrare gruppi di maschi alti e biondi, ubriachi marci, che insultano e molestano le donne. Soprattutto quelle che non hanno tratti somatici tipicamente neerlandesi. Non sto qui a raccontare la serata che io e un'amica spagnola, entrambe basse e scure, quindi visibilmente non neerlandesi, abbiamo trascorso difendendoci da insulti e aggressioni da parte di vari ubriachi olandesi, la cui mentalità macista è rafforzata da un'altrettanto forte eredità patriarcal-coloniale. Tutto questo per dire che è inutile strapparsi i capelli per ciò che è accaduto lo scorso Capodanno in alcune città europee, se lo si continua a leggere come una questione meritamente etnica, anche perché serve solo a dimenticarci che in quelle che vengono definite altre culture, molto spesso le donne lottano con una determinazione da cui noi avremo solo che da imparare. Come le Imperial Ladies furono complici del patriarcato colonialista in nome della propria presunta emancipazione da esportare, così l'etnicizzazione della violenza di genere è complice della crescente violenza di genere intraetnica, nostrana e dissimula, buttandolo sull'altro il dominio dell'uomo occidentale su tutte le donne, sull'autoctona, mogliettina o ex fidanzata massacrata, alle bambine thailandesi stuprate dai turisti sessuali, alle donne straniere sposate, che siano mogli sexy e remissive. Yeah. 'cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I wanna see people and I wanna see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in, if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Di fatto, quello che balza agli occhi di più rispetto a tutto, a tutta questa, tutto quello che è successo, a tutto quello che sta ancora succedendo, è che ognuno, cioè ci sono tantissime componenti che però attuano tutte la stessa pratica, cioè la strumentalizzazione. E la strumentalizzazione è il dato più evidente, perché ognuno, a seconda degli interessi, porta dalla sua parte l'avvenimento, lo stravolge, lo modifica, lo falsifica, lo piega. E la destra in funzione xenofoba, contro l'immigrato, contro tutto quello che è stato un minimo di attenzione nei confronti dei migranti, e quindi ci sono state queste manifestazioni di Pegida in Germania. Tutto l'Occidente democratico invece lo strumentalizza per calcare la mano sulla bontà di fatto del neocolonialismo, e quindi di tutte le guerre umanitarie che portano, che occidentalizzano il terzo mondo, che porterebbero la civiltà, la democrazia, l'attenzione alle donne, perché questi qua invece in funzione non solo islamica ma proprio un'altra cultura, no? Lo scontro di civiltà, sono pericolosissimi e quindi destabilizzano l'Occidente. Poi c'è anche un altro discorso molto più sotterraneo, ma anche abbastanza evidente, perché si collega a tanti altri tasselli che in questo momento possono essere messi insieme, che è un discorso politico contro la Merkel. Cioè io sono convinta che Angela Merkel in questo momento sia sotto attacco, tanto è vero che il PSD ha fatto il congresso tempo fa e ha ribadito la ha esplicitato la di essere favorevole al TTIP, mentre in Germania c'è un movimento che non è assolutamente favorevole al TTIP e Angela Merkel non ha mai dichiarato partito, il suo partito non ha mai dichiarato, fatto questa dichiarazione, anzi ha fatto diversa resistenza, perché lei è il terminale di una serie di interessi che sono quelli dell'industria manifatturiera tedesca e quindi per tutela gli interessi di chi esporta, quindi è tutto fuorché favorevole al TTIP. Però è sotto attacco perché la situazione internazionale USA in testa e vuole a tutti i costi il TTIP, e quindi ci sono tanti modi di destabilizzare chi è al governo, ce ne sono tantissimi e vengono usati tutti. E poi c'è anche una strumentalizzazione, diciamo, antifemminista, se, come giustamente sottolineava anche la compagna nel primo articolo che leggevamo, si intende per femminismo chiaramente non quello mainstream, non quello che si è, che ha venduto l'emancipazione e le conquiste che le donne hanno ottenuto tramite dei processi rivoluzionari e di rottura, li ha venduti invece al capitale e a questo stato di cose, a questo sistema produttivo. Allora è antifemminista in questo senso, quindi di un femminismo invece che si riconosce in un percorso rivoluzionario, in delle tensioni rivoluzionarie che quindi si devono per forza legare anche a una critica anticapitalista, e come questa, diciamo, strumentalizzazione antifemminista è palese e viene portata, diciamo, le viene data voce proprio dalle donne bianche, appunto Lucia Annunziata in testa, perché è lei che si è espressa, insomma, dal suo giornale, ma chiaramente se avessero avuto l'occasione anche tutte le altre. Perché appunto è come se dicessero: l'intimazione è questa, una donna occidentale per mantenere le libertà che ha conquistato di andare in giro la sera, di vestirsi in un certo modo, di lavorare, di rivendicare la propria autonomia anche relazionale, affettiva, sessuale, eccetera eccetera, deve, diciamo, deve difendere questo sistema che le ha dato questa possibilità, no? Che ha integrato queste nuove libertà all'interno di questo apparato produttivo, sociale, eccetera eccetera. Quindi se si vogliono mantenere queste libertà, questa emancipazione, allora bisogna rientrare tutti quanti nei ranghi e difendere il nostro sistema Italia, come in più in generale il sistema Europa o Occidente, nei confronti di un'aggressione esterna, no? Questo è il passaggio logico di cui diceva appunto la compagna, che quindi l'Occidente è esente, ormai si è immunizzato dal sessismo e dal patriarcato, e dunque se una donna vuole continuare a portare avanti questo stile di vita deve allinearsi a queste nuove politiche neocoloniali e quindi allo scontro di civiltà. Scusate, volevo aggiungere solo una cosa che però è più di metodo, perché penso anche che bisogna stare attenti in queste situazioni, anche nel momento in cui si tenta di fare un'analisi critica, no, a quello che sta avvenendo, perché penso che quello che è appena stato detto sia, penso, il nucleo centrale in realtà della questione di Colonia. Però in generale molto spesso nel parlare, anche magari perché non si ha un approccio femminista, no, nel affrontare determinati problemi, penso che come metodo dovremmo ricordarci e ripetercelo abbastanza spesso che o si prende un approccio femminista nel leggere quello che sono i fatti che avvengono intorno a noi in toto e quindi nella sua complessità, come proviamo a fare e provano tante altre compagne a fare, e non solo stare sul pezzo, no, criticare anche dalla parte opposta, cioè nel senso anche cavalcare i fatti di Colonia semplicemente per dire che loro sono fascisti perché dicono le nostre donne. In realtà è molto pericoloso e stiamo attenti su questo, perché è vero che sono fascisti ed è vero che fa schifo quello che dicono, però schiacciare la critica anche da parte nostra esclusivamente su questo, poi in realtà sminuisce quello che è la potenza in realtà di poter controbattere dal punto di vista di genere. Please don't you do it to me, baby. No. Please don't you do it to me, baby. Take the love I offer. Honey, let me be. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Mala tempo da Currunt. Continuano le trattative tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per il TTIP. La prima considerazione che balza agli occhi è che continuano ad essere segrete. Un trattato che avrà ripercussioni importanti nella vita di milioni di persone viene condotto segretamente, alla faccia di quelle e quelli che si riempiono la bocca di parole come democrazia, rappresentatività, partecipazione. Non è necessario qui ricordare cos'è il TTIP. Un attacco a tutto campo alla sovranità dei singoli paesi che minerà la possibilità di sopravvivenza di interi settori economici e industriali, nonché un attacco a tutto campo alle conquiste alimentari, sociali e culturali ottenute nei singoli Stati europei. Il TTIP è una vera e propria NATO economica. La NATO di fatto detta la linea politica estera agli Stati aderenti all'Unione Europea. Il TTIP lo farà anche nel campo economico. Non è sufficiente dire che le lobby delle multinazionali anglo-americane fanno pressione, è necessario dire che le stesse dettano l'agenda. Questa non è una novità negli USA, dove le multinazionali dirigono la politica in maniera compiuta dai tempi dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Già Eisenhower, che pure veniva dall'esercito, nel discorso di commiato alla fine del suo mandato presidenziale, denunciò l'invadenza e qualche cosa di più dell'apparato militare industriale. L'espansione e la sempre maggior forza politico-economica che questo settore avrebbe raggiunto nei paesi capitalisti era stata a suo tempo analizzata e raccontata da Rosa Luxemburg. L'apparato militare industriale statunitense detta ora la politica estera dell'Unione Europea tramite il grimaldello della NATO e si cerca di estendere questa ingerenza diretta in tutti i campi tramite il cavallo di Troia del TTIP. Di fronte all'importanza e alle devastanti conseguenze di questa operazione, colpisce il silenzio e la disattenzione in Italia rispetto al tema, non solo da parte dei media, ma anche del movimento antagonista. Certo, i primi sono schierati, interessati e parte integrante del sistema, ma la disattenzione del movimento è preoccupante. L'unico paese dove il dibattito è forte e ci sono state imponenti manifestazioni di piazza è la Germania, dove il governo, che è espressione degli interessi dell'industria manifatturiera ed esportatrice, mettendo al primo posto gli interessi di quest'ultima con evidenti riflessi occupazionali, mostra poca propensione all'adesione al TTIP. Perciò balza agli occhi che l'SPD, nel suo ultimo congresso, cioè i socialdemocratici tedeschi, nel dicembre del 2015, dei tanti temi che poteva e avrebbe dovuto affrontare, ha trovato il tempo di discutere e di sancire formalmente per iscritto la sua disponibilità all'adesione al TTIP. Qualcuno potrebbe definire questa scelta improvvida, dato che va contro gli interessi della Germania e non tiene conto degli umori e delle scelte dei tedeschi e delle tedesche. Ma il gruppo dirigente dell'SPD queste cose le sa. Evidentemente ha puntato sull'influenza a tutto campo degli Stati Uniti e spera di eliminare Angela Merkel e di andare al potere da solo con una soluzione all'italiana. Mala tempora Currunt. È necessario mettere all'ordine del giorno lo smascheramento e la sconfitta politica della socialdemocrazia, che naturalizza nei paesi europei il neoliberismo, che vuol dire realizzare compiutamente in Europa la società americana. E passaggio fondamentale è l'uscita dell'Italia dalla NATO. Ciao. Yeah. Allora, come al solito, il tempo è tiranno, avremo bisogno di un sacco di tempo di più perché abbiamo soltanto pochi minuti, perché la seconda parte della nostra trasmissione era dedicata al fatto che il femminismo deve necessariamente essere contro la guerra del capitale e contro la NATO, perché l'impegno sul fronte interno di qualsiasi tipo sia nei confronti di questa società, delle sue leggi securitarie, del suo controllo sociale, dell'impoverimento di interi strati della popolazione, di tutto quello che il neoliberismo sta portando nel distruggere le vite delle persone e delle donne, perché noi in particolare abbiamo questa attenzione, dato che ci siamo dentro, siamo coinvolte fino alle orecchie, e la strumentalizzazione che questo sistema fa della violenza che viene agita su di noi, di tutto quello che succede, anche abbiamo parlato di Colonia nella prima parte della trasmissione, che succede, è proprio una delle ragioni fondanti per prendere parola e azione contro appunto la guerra. Già noi qualche da diversi anni stiamo portando avanti un discorso, cioè un'analisi sulla situazione internazionale riferita anche alla situazione interna, e poi questo 8 marzo abbiamo in particolare l'abbiamo particolarmente imperniato sulla guerra, contro la guerra del capitale, contro l'ordine patriarcale. Detto questo, volevamo riassumere brevemente, proprio perché il tempo è poco, alcune note che ha caricato sul suo blog Moju Manuli, che è il blog proprio mojumanulinoblogs.org, perché il femminismo è necessariamente antimilitarista, e comunque perché essere antimilitariste è imprescindibile nella lotta contro questa società. Allora, cercherò di essere breve perché insomma i punti sono tanti, però tipo il primo è il militarismo è un sistema, non è solamente una guerra, è una logica, è un insieme di regole che perpetua e ricrea la nostra società e la nostra vita quotidiana. L'analisi queer del potere è uno strumento politico che ci può aiutare a sfidare queste regole. 2. Il militarismo perpetua la rigidità delle regole di genere ed è basato sulle idee eterosessiste di genere che definiscono la mascolinità in maniera fisica, potente e aggressiva, mentre la femminilità è sottomessa e docile. Il militarismo, punto 3, dipende e dà e ricrea un ordine mondiale razzista e gerarchico che ci decide e che ci dice che vita merita di essere difesa e quale no. L'immagine dell'altro, che deve essere anche il noi, il bianco, eterosessuale, no? Quello tipo senza nessun tipo di handicap, possibilmente anche uomo, e la sua vita deve essere difesa. L'analisi queer, che evidenzia, coltiva e nutre la differenza, è una sfida dell'esistente di questo noi omogeneo. Punto 4. L'opposizione Diciamo che poi i punti sono entrano molto più specificatamente nel mondo, diciamo, queer e LGBTQ, però per noi è fondante ribadire che la militarizzazione, dei territori sul fronte interno, le guerre neocoloniali sono di per sé cultura dello stupro, perché impostano un ordine e ribadiscono un ordine gerarchico, autoritario e macista, basato sulla differenziazione di genere e di classe. Beh, d'altra parte, insomma, ne abbiamo anche parlato durante l'operazione Trident Juncture, no? Che di come, dico, si lega, oltre ad essere cultura dello stupro, la guerra in sé, anche la militarizzazione dei territori è cultura dello stupro, come ricordavano anni fa le compagne della Valsusa, come anche noi abbiamo detto tante volte, come ci è stato anche ricordato dall'operazione NATO che c'è stata sul nostro territorio e su quello di altri paesi, perché anche lì il l'obiettivo, diciamo, non era soltanto quello di far percepire alla Russia o agli altri paesi, diciamo, la capacità di risposta dell'Occidente, dell'America, insomma, del fronte NATO, ma era anche abituare la popolazione nostrana alla vista e quindi alla convivenza con un esercito d'occupazione, che poi di fatto era questo, e abituare, insomma, e addestrare i militari ad ottenere la fiducia della popolazione. Quindi, diciamo, che paventa degli scenari in cui non soltanto ci sono delle ripercussioni di ordine economico dalle aggressioni verso gli altri popoli, ma che insomma potrebbero anche diventare e manifestarsi delle conseguenze anche di ordine militare proprio, insomma. E comunque sabato ci sono diverse iniziative contro la guerra, non solo a Roma c'è una manifestazione alle 3 a Piazza dell'Esquilino, mi pare, contro la guerra, ma anche in altre città. E comunque al di là delle manifestazioni, al di là di chi le ha lanciate, al di là del taglio che possono avere, secondo noi manifestare o comunque fare delle iniziative o comunque attivarsi contro la guerra del capitale, contro la NATO, è fondamentale. Already know this is me that you're talking to, and anything I say I have said before. When will it be enough? Then something in my mind shifts, and my eyes slip on my heels, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror. Allora vi salutiamo tutti e tutte, e vi ricordiamo che siamo su Radio Onda Rossa 87.9, e che la radio non vive d'aria, ma perché non ha padroni, padroncini, e quindi ha bisogno del sostegno di tutti e tutte, per cui mi raccomando, sottoscrivete al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185, Roma. Invece per quello che riguarda noi della coordinamenta, se volete comunicare con noi, la nostra mail è coordinamenta@autistiche.org, e invece per leggere e ascoltare tutti i nostri podcast, coordinamenta.noblogs.org. A mercoledì.